2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 30 ottobre 2010, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 e radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Trovate tutte le informazioni online su www.radio24.it. Nel nostro sito internet potete accedere alla sezione podcast oppure nella sezione programmi alla voce 2024. Oggi parleremo di banda larga con un'esperienza di una città importante del nord Italia che da molti anni ha scelto la strada della fibra ottica per l'infrastruttura internet cittadina. Ne parleremo tra poco, poi parleremo anche di una giovane startup che abbiamo incontrato recentemente, una startup che punta a far diventare molte persone, magari solo appassionate di radio, dei piccoli editori radiofonici online. E poi parleremo anche di sicurezza informatica, ma cercando di avere una prospettiva del paese Italia. Questo tra poco, adesso alcune notizie della settimana. È terminata dopo 15.000 chilometri la prima spedizione intercontinentale composta da veicoli elettrici senza guidatore. Le piccole auto dotate della tecnologia per la guida automatica del VisLab di Parma erano partite dall'Italia il 26 luglio e sono arrivate a Shanghai questa settimana. Sono state diffuse le prime immagini di un prototipo di quello che dovrebbe essere l'ormai imminente PlayStation Phone di Sony Ericsson. Lo smartphone utilizzerà Android come sistema operativo e potrebbe uscire entro fine anno. Un'altra notizia della settimana riguarda la denuncia dell'Authority per la Privacy contro Google Street View per interferenze illecite nella vita privata. La Procura di Roma indaga sulla presunta raccolta di dati privati trasmessi via Wi-Fi e che avverrebbe durante le riprese fotografiche delle auto di Google. Casi analoghi sono già avvenuti mesi fa negli Stati Uniti e in altri stati europei e l'azienda ha da tempo dichiarato di aver bloccato la scansione Wi-Fi. Buone notizie per Microsoft, che nel trimestre ha registrato utili in crescita del 51% grazie alla forte richiesta di Windows 7 e di Office 2010, più 38% anche per la console Xbox. E adesso, come vi dicevo, parliamo di banda larga, di infrastruttura. Sapete che questo è un tema che tocchiamo spesso anche perché oramai è dimostrato, ma non lo dicono solo i numeri, lo dicono anche molte esperienze nazionali e soprattutto internazionali, che laddove viene costruita un'infrastruttura che supporta internet a banda larga, quindi una infrastruttura di nuova generazione, tipicamente in fibra ottica, beh, questo è un beneficio per l'economia in generale del paese. Saluto Gerardo Paloschi, che è direttore generale di AEMCOM Cremona. Benvenuto 2024. Grazie, buongiorno a tutti. Oggi vorrei utilizzare l'esperienza di Cremona come un esempio di come una pubblica amministrazione locale può contribuire alla costruzione della rete internet del futuro e in questo modo contribuire anche alla crescita della nostra economia. Naturalmente l'economia cresce a partire da quella locale. Dunque, in buona parte della città di Cremona gira la fibra ottica. Paloschi. Esattamente così, cioè molti anni fa, a metà degli anni 80, nella città di Cremona è stata realizzata la rete del teleriscaldamento dall'azienda dei servizi pubblici locali e in allora ci fu la preveggenza di posare insieme ai cavidotti per il teleriscaldamento anche cavidotti vuoti, che a metà degli anni 90 hanno iniziato a essere riempiti di fibra ottica, dando vita a un progetto complessivo di rete metropolitana ad alta velocità che oggi è completa nella sua realizzazione e che già supporta quella che normalmente viene chiamata ultra banda larga, cioè la possibilità di collegamenti veloci a 100 megabit. Abbiamo recentemente parlato a 2024 di Fastweb, che ha lanciato i 100 megabit. Queste reti supportano velocità altro che i 100 megabit, anche voi avete questa offerta da pochi giorni. Lei ci ha già detto una cosa interessante ed è anche un messaggio che vorrei lanciare soprattutto agli amministratori pubblici. Quando si fanno infrastrutture, un marciapiede, una strada nuova, oppure la rete del gas o, come lei ha citato, quella del teleriscaldamento, costa veramente molto poco mettere giù un tubo vuoto che prima o poi può ospitare della fibra ottica. È assolutamente così. Cioè, diventa un costo marginale rispetto al fatto di dover riscavare la città. Questo diventa un ostacolo da tanti punti di vista. Questa rete da quando esiste? Quella in fibra ottica? La rete in fibra ottica ha iniziato sperimentalmente come primo anello, come primo backbone alla fine degli anni 90 e poi è andata a regime nel 2003 con i primi servizi e oggi di fatto è totalmente completa. Sono circa 200 km di rete posata e funzionante, più 35 km nel primo hinterland della città, quindi ci sono alcuni comuni cintura, diciamo, che sono collegati ad alta velocità per i servizi comunali, per l'altro. Sì. Oggi voi continuate a scavare, quindi la rete si diffonde ulteriormente, si espande ulteriormente o no? Diciamo che lo scheletro principale della rete è completo. Oggi noi stiamo facendo le rifiniture, cioè andiamo in modo capillare un po' dappertutto e quindi nell'ossatura principale i lavori sono completati. Adesso pian piano, man mano che nascono quartieri piuttosto che necessità dal punto di vista degli insediamenti industriali, arriviamo, spigliamo la fibra dall'anello più vicino e la portiamo nell'impresa piuttosto che nell'azienda. Bene, adesso ci fermiamo per pochi secondi. Questo è 2024, siete su Radio 24, ci risentiamo tra poco. Ci sono purtroppo pochi esempi in Italia, speriamo ce ne siano nei prossimi mesi e nei prossimi anni, di pubbliche amministrazioni locali che credono, come è giusto che sia, che posare fibra ottica, creare un'infrastruttura per accedere ad internet in modo non solo più veloce ma anche più affidabile e speriamo in futuro anche in modo più economico, sia un beneficio per la comunità, per le aziende, sia le piccole che le grandi imprese del nostro territorio. C'è l'esempio di Milano, ma la rete è stata poi privatizzata, ceduta a privati. L'esempio di cui stiamo parlando oggi è quello di Cremona. La rete in questo caso è pubblica, è rimasto un asset pubblico e anche l'azienda che la gestisce, la Emcom, è pubblica, maggioranza pubblica. Gerardo Paloschi è il direttore generale dell'azienda che è con noi nel nostro studio. Questo è un aspetto importante ed interessante perché c'è chi paragona queste infrastrutture come le strade e va da sé che le strade cittadine sono pubbliche, gestite dal comune. Io come cittadino, ma molti cittadini vorrebbero che le pubbliche amministrazioni investissero in queste infrastrutture per portare anche nelle periferie, non solo nelle grandi città, internet a banda larga, soprattutto con fibra ottica, senza aspettare progetti nazionali che chissà quando arriveranno. Questo è sicuramente un esempio interessante. Paloschi, la domanda che le vorrei fare, tornando anche al tema del pubblico-privato, è: una cosa del genere, che tipo di ritorno di investimento ha? No, la domanda è molto interessante e apre uno scenario vastissimo, nel senso che personalmente, ma questa è una mia visione, io ritengo che queste infrastrutture debbano essere garantite in un paese civile moderno esattamente come negli anni scorsi, nei decenni scorsi sono stati garantiti altri servizi, tipo fognature, le strade, l'illuminazione, esatto. Quindi questo è il tema, cioè fare in modo che le connessioni veloci vengano garantite come servizio universale. Ed è stata la ragione per la quale a metà degli anni 90 gli enti locali cremonesi hanno iniziato a investire in questa cosa, sapendo che i ritorni non sono ritorni a breve, sono ritorni a medio-lungo periodo, ma voglio dire hanno ritorni da altri punti di vista. C'è un ritorno di competitività locale, perché va ricordato, questo lo posso garantire, moltissime aziende che si sono insediate in questi anni, anche multinazionali, hanno fatto tra i vari check anche quello della compressione della fibra, disponibilità, certo, della fibra, per esempio. E quindi dal punto di vista della competitività del territorio questo asset è un asset importante. E poi c'è anche il tema della qualità della vita. Io le assicuro, noi abbiamo un territorio di 115 comuni, molti piccoli comuni, e oggi nei piccoli comuni, soprattutto da parte dei giovani, non avere la disponibilità di connessione veloce è vissuto come un minus, è vissuto come un qualcosa che penalizza. E non è un fatto positivo che in un paese come il nostro ci siano cittadini di serie A, B e C. Ecco perché dico, occorre sì la supplenza, come nel caso di Cremona, degli enti locali, ma occorre anche una visione di paese, cioè un sistema paese che garantisca a tutto il territorio le connessioni veloci, e quindi le reti in fibra ottica piuttosto che le reti wireless broadband, insomma tutto quello che può garantire alle aziende e ai cittadini la piena disponibilità. Senta, grosso modo quanto è stato investito? Circa 20 milioni di euro. Quindi mi verrebbe da dire pochissimo, perché con 20 milioni di euro io non so quanti metri o chilometri di strada si possano fare. No, è così, come le dicevo prima, come anche lei sottolineava giustamente, a Cremona l'infrastruttura è stata fatta perché comunque la città è stata aperta per un'opera molto importante che era il teleriscaldamento. Che è costata molto, altro che 20 milioni. Altro che 20 milioni. E quindi se si dovesse realizzare ex novo, evidentemente costerebbe molto di più. In realtà per noi è stato un costo sopportabile. Sì. Senta, in base, allora, gli addetti ai lavori sanno quello che io sto per domandare, cioè la risposta. Però questo è un dato interessante. È vero, e glielo chiedo visto che lei ha già un'esperienza, ma l'azienda ha una lunga esperienza in questo settore, è vero che la fibra si guasta poco, i costi di manutenzione sono bassi, quindi fatto l'investimento iniziale, grosso modo, insomma, si ha un'infrastruttura molto affidabile. Assolutamente sì, cioè se l'infrastruttura è costruita con criterio, effettivamente dal punto di vista manutentivo ha meno bisogno di altra infrastruttura. Noi abbiamo parallelamente una rete Hyperlan che copre di fatto tutta la provincia di Cremona, quindi 115 comuni, che naturalmente per questioni economiche non potevamo raggiungere attraverso la fibra, se non qualche collegamento, ma in modo sporadico, diciamo. Sì. Tra rete wireless e rete in fibra c'è una grande differenza dal punto di vista della manutenzione, dei costi di manutenzione. Senta, questa rete arriva fino alla casa del cittadino cremonese o diciamo nella portineria dove arriva? No, le ho promesso di non utilizzare termini. Sì, perché qua potremmo dire fiber to the door. Esattamente, fiber to the home. Cioè, l'architettura prevede, è un point to point, quindi un punto punto, e arriva direttamente nelle abitazioni. All'appartamento, e questo consente di avere, diciamo, un operatore totalmente alternativo all'incumbent, sì, che dà sullo tutto stesso cavo telefonia e internet veloce. Sì. Siamo arrivati a casa del cittadino, quindi del vostro cliente, potenziale cliente, allora mi faccia capire quanto costano questi servizi e soprattutto che tipo di tagli, visto che oggi quando si parla di fibra si sparano anche cifre molto elevate, o comunque quando si parla di ADSL, di banda larga, insomma sappiamo che i tagli possono essere 4, 7, c'è chi dice 20, poi in realtà non lo sono quasi mai 20, ma parliamo di megabit. Nel vostro caso? Nel nostro caso i collegamenti è in fibra, quindi è un collegamento da 20 megabit fondamentalmente. I costi sono dei costi di mercato, insomma, che oscillano tra i 30 e i 40 euro al mese complessivi. Va tenuto conto che noi portiamo due servizi e quindi la valutazione, telefono e internet, sì, la valutazione, sì, viene fatta anche tenendo conto che prendendo AMCOM non si ha più il canone Telecom, che certo, comunque è un costo, e quindi va fatto un piccolo bilancino e ci si rende conto che tutto sommato, avendo un servizio flat 24 ore di fibra a 20 megabit più il telefono, in realtà è un costo, diciamo, di mercato. O comunque, sì, esatto, allineato al mercato. Sì, sì. A proposito, anche perché noi siamo nella piena competizione, nel senso che su Cremona ci, sì, sono tutti gli operatori, come a Milano, come, certo, giustamente deve, sì, essere, sì, beh, così. È giusto che sia così, anche se io mi chiedo perché un cittadino dovrebbe prendere la DSL di un altro operatore quando può prendere la fibra vostra. Vabbè, questo poi lo decidi. No, una risposta posso tentare di darla. Perché c'è la percezione che oggi una DSL possa essere sufficiente ai fabbisogni di banda di una famiglia. E in questo in parte è vero, anche perché c'è un po' di ritardo in Italia, ma anche altrove, rispetto ai servizi a valore aggiunto. Cioè quei servizi che necessitano di grande banda, come per esempio il video on demand. Ecco, nel momento in cui arriveranno nelle case questi tipi di servizi, ci si renderà conto di che valore ha la fibra ottica rispetto a una rispettabilissima DSL sul doppino telefonico. Possiamo ipotizzare che oggi ancora non c'è un'offerta del genere, ma gliela propongo, diciamo. Invece che offrirmi ad un prezzo sicuramente elevato rispetto a quello che citava prima, i 100 megabits al secondo, voi mi date un po' di banda in meno, ma me la fate pagare molto poco, perché io penso alle famiglie che non possono sopportare certi costi, magari dove ci sono degli studenti, o famiglie che ancora non hanno capito, come diceva lei, l'importanza di internet. Magari hanno la TV digitale col decoder, un abbonamento per guardare delle partite di calcio, e quelle guardano, invece internet si apre un mondo e c'è poca percezione. Però effettivamente il costo della fibra o meglio il costo di collegamento ad internet è un problema. Guardi, la sua domanda mi fa venire in mente gli inizi della mia carriera. Io vengo dalle reti civiche, dall'esperienza delle prime reti civiche, dove c'era molta utopia. È importante, fondamentale, era la benzina, insomma, per andare avanti. Quindi ancora oggi, voglio dire, come 20 anni fa, ritengo che in un sistema a paese come il nostro internet debba diventare una commodity, cioè debba diventare una cosa per tutti, disponibile e ai prezzi più bassi. Serve però anche qui il ragionamento che dicevo prima, cioè l'idea di un piano nazionale dove ci si incontra anche sul livello degli investimenti da parte della mano pubblica, nel senso che noi siamo aziende, è vero, lo diceva lei, pubbliche, ma comunque hanno dei bilanci che, certo, che alla fine devono tornare. Queste società sono capital intensive, perché comunque le infrastrutture, metterle giù, posarle, mantenerle, rimpiazzarle, perché c'è un'obsolescenza molto veloce delle apparecchiature, delle necessità, costa, e quindi in qualche modo le tariffe devono far tornare in un tempo ragionevole gli investimenti. Manca, ecco, questa idea di un internet per tutti, che si potrebbe declinare in molti modi, con dei bonus per i ragazzi fino a 18 anni o in età scolastica, universitaria, cioè, sono tante le modalità attraverso le quali si potrebbe arrivare, io lo condivido. La defiscalizzazione anche? Assolutamente sì, perché vuol dire che nel nostro paese queste tematiche sono diventate, sono in pole position, in questo momento non lo sono. Esatto, la risposta dei cittadini in questi 7-8 anni, com'è stata? Cioè, se io avessi la fibra davanti a casa, cioè io ce l'ho fortunatamente, ma se abitassi in un luogo dove fino a ieri c'era la DSL e oggi mi portano la fibra, mi abbonerei subito. No, la risposta è elevata, siamo molto contenti. Tenga conto che attualmente noi abbiamo circa il 30% delle abitazioni della città di Cremona già passate da fibra ottica. Questo vuol dire che c'è la percezione dell'importanza di questa cosa. Però le dico, la soddisfazione più grande, insomma, da piccolo operatore di telecomunicazioni come può essere Encom, è quella quando andiamo nei piccoli paesi che abituati purtroppo a utilizzare il modem e vecchi collegamenti, a un certo punto gli arriva attraverso una nuova tecnologia la larga banda. Ci sono delle piccole feste e questo le fa capire quanto sia importante oggi in una comunità avere queste disponibilità, queste tecnologie. E quindi quando andiamo in quelle realtà siamo molto contenti. Bene, Paloschi, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro. A presto. Grazie a voi per questa finestra che ci avete offerto. E questa è un'intervista da fare ascoltare a sindaci, amministratori pubblici di qualsiasi tipo, funzionari, assessori, consiglieri comunali, perché un esempio del genere andrebbe seguito. Come dicevamo, se uno fa una infrastruttura come può essere la rete del gas, un acquedotto, ma anche quando si rifà un marciapiede, costa molto poco mettere un tubo di plastica dove prima o poi qualcuno potrebbe mettere la fibra ottica. Bene, ci fermiamo per qualche minuto, quindi scrivete ai comuni e mandate il link a questa intervista che sarà disponibile all'interno del nostro podcast su www.radio24.it. Ci fermiamo per qualche minuto, riprendiamo tra poco. Radio 24. Seguiteci nel pomeriggio del sabato su Radio 24 tra le 16 e le 17, ma se vi siete persi la prima parte oppure non avete sempre tempo di ascoltarci durante questa fascia oraria, beh, c'è una soluzione ottima per riascoltarci, ovvero andare sul nostro sito internet, trovare il link al nostro servizio podcast, copiarlo e utilizzarlo all'interno di quei software che gestiscono il podcast. In questo modo avete la possibilità di scaricare settimana dopo settimana in maniera automatica il file MP3 della nostra trasmissione. Oppure semplicemente andate sul sito internet e avrete la possibilità di riascoltarci. Ma il podcast è un modo molto moderno e intelligente per riascoltare i programmi delle radio in generale, ma naturalmente di Radio 24. Tra poco ascolteremo, adesso ascoltiamo un'intervista che abbiamo realizzato qualche tempo fa, un paio di settimane fa a SMAO. Sapete che recentemente abbiamo seguito SMAO nella tappa milanese. Abbiamo parlato con una delle tante startup che si presentavano e visto che naturalmente noi amiamo la radio, il mondo della radio e anche le evoluzioni della radio, abbiamo parlato con Francesco Baschieri, che è amministratore delegato ed è uno dei fondatori di Spreaker. Spreaker è un sito internet, metteremo il link anche sul nostro sito web, che fondamentalmente vi permette di diventare dei piccoli editori radiofonici, oppure se siete particolarmente bravi potete anche diventare grandi editori radiofonici online, quindi tutto dal computer di casa su internet. Spreaker è un servizio che permette di creare la propria radio online, o più precisamente il proprio show radiofonico. È, se vogliamo, una specie di YouTube delle radio, dove oltre a pubblicare le cose che creo posso anche crearli direttamente sul sito. È tutto gratuito. Quindi basta, diciamo, una connessione ad internet, un computer e forse anche un po' di musica, ma poi approfondiamo anche questo particolare, per creare la propria radio. Uno deve trasmettere in diretta, può anche registrare, fare anche solo mezz'ora al giorno. È una scelta libera, abbiamo tantissimi utenti che trasmettono in diretta perché è divertente, perché con Twitter, con Facebook, con le chat gli ascoltatori possono interagire e parlare e influenzare quello che dice la persona in diretta, altri che preferiscono registrare e uploadare i podcast. E si ascolta sempre con un computer o magari con una radio che riesce a connettersi ad internet? Sì, o anche magari con l'iPhone e l'iPad. Le radio che riescono a connettersi a internet sono sempre più numerose, quindi vediamo un futuro roseo. Senti, spieghiamo un po' agli ascoltatori come funziona. Quindi io mi iscrivo a Spreaker, spreaker.com, dopodiché che cosa devo fare per andare online per creare la mia radio? Finita la registrazione c'è un percorso abbastanza semplice che guida i produttori. Si tratta di creare quello che quello che chiamiamo lo show, che è il contenitore di un certo numero di episodi dello show. Quindi se voglio parlare di innovazione creerò uno show che si chiamerà Innovazione e poi vado a registrare il primo episodio. Posso scegliere se essere in diretta, significa che dovrò dare l'informazione ai miei amici dell'orario in cui penso di andare in diretta, piuttosto che in differita, quindi creo lo show e lo pubblicherò all'ora che preferisco. A questo punto si apre una console, che non è altro che una console di mixaggio, totalmente online, che mi permette di caricare delle tracce musicali, degli effetti sonori e di parlare, miscelando i volumi di tutte queste sorgenti. È tutto molto semplice e intuitivo, l'unica cosa che bisogna ricordarsi di fare è spingere il pulsante del break pubblicitario almeno una volta ogni 15 minuti. Perché voi guadagnate, come molte cose che accadono su internet, grazie alla pubblicità. Spesso su internet si guadagna con la pubblicità che si vede, in questo caso quella che si sente. Soprattutto quella che si sente, noi miriamo anche in maniera un po' ambiziosa a mettere insieme l'audio e il video, quindi a sincronizzare i banner che di solito sono muti sui siti web alla pubblicità audio che sta passando in quel momento sul canale e magari addirittura a inserire dei veri e propri video al posto della semplice pubblicità audio, quindi una radio che manda gli spot della televisione per intenderci. Voi siete partiti da pochi giorni ufficialmente, anche se siete online da qualche mese, quindi avete fatto un po' di prove. Ad oggi quanti utenti avete e secondo voi, in base anche al vostro business plan, a quanto potenzialmente può arrivare un servizio come questo? Allora, la cosa che ci ha sorpreso è che senza avere fatto nessuna spinta pubblicitaria, ma utilizzando i social media e il marketing virale, quindi word of mouth, passaparola, Siamo arrivati oggi a un numero di ascoltatori che si avvicina ai 200.000 unici su base mensile e abbiamo 25.000 persone registrate sulla piattaforma, che stanno crescendo sempre più velocemente. Dove possiamo arrivare? In realtà noi abbiamo delle idee, forse sono molto ambiziose, però pensiamo di arrivare a un insieme di spettatori, di ascoltatori, che sono paragonabili a quelli di una radio commerciale, ad esempio sul territorio italiano, che c'è oggi. Quindi qualche milione di ascoltatori nella giornata media. È chiaro che i nostri ascoltatori li possiamo fare in tutto il mondo e non solo in Italia. Da questo punto di vista, il fatto che il vostro mercato è mondiale vi favorisce o vi limita nella raccolta pubblicitaria? Perché io potrei essere, come investitore pubblicitario, interessato al territorio italiano o addirittura a un territorio ancora più piccolo e mi potrebbe interessare la radio locale. Ecco, quali sono i vostri investitori pubblicitari? La raccolta pubblicitaria è un problema, così come lo sono tante altre cose, tra cui la promozione stessa del nostro canale. Per questo motivo siamo orientati, oltre all'Italia ovviamente dove siamo basati ed è il mercato più semplice da affrontare, ad andare ad attaccare quei mercati dove ci sono tante persone che ad esempio parlano la stessa lingua, come gli Stati Uniti, e dove la raccolta pubblicitaria può essere fatta su una base un pochino più grossa. Non è un caso che tutti i business internet che scalano in fretta siano partiti prima dagli Stati Uniti e poi si siano espansi all'estero, perché questo problema della lingua e della cultura è molto difficile da affrontare. Senti, parliamo della musica, che è sicuramente un ingrediente importante, perché è vero che uno può fare una radio di parola anche con Spreaker, però la musica immagino che sia quella che più spesso viene utilizzata. Esiste il grosso problema dell'illegalità quando si parla di musica. Come lo avete risolto, come lo state risolvendo? Lo stiamo risolvendo parlando con gli attori che sono coinvolti nel processo di gestione dei diritti musicali, che sono sostanzialmente, per semplificare, due. Qualcuno che tiene le parti dei cantanti, degli artisti, insomma, di chi ha creato la musica, e un altro invece che tiene gli interessi di chi la musica la pubblica, quindi le case discografiche che spendono soldi nella promozione dell'artista, nell'incisione. Questi due tipi di diritti sono distinti. In Italia ci sono due consorzi che si occupano di queste cose. Dal lato degli artisti c'è la SIAE, con cui si fanno certi accordi e si cerca di capire se si possono estendere anche ad altri territori. Sul lato delle etichette si può lavorare o scegliere di lavorare direttamente con le etichette o con altri. Noi ci siamo coperti, non avendo ovviamente risorse infinite, facendo una scelta, scegliendo di pubblicare nella nostra libreria comune della musica priva di diritti, che chiunque può utilizzare senza bisogno di pagare dei diritti o di comperarsela, no? Come prima cosa. E per questo abbiamo già attivato delle partnership con dei player di riferimento in questo mercato. Se invece uno vuole trasmettere la hit del momento, noi gli diamo la possibilità di farlo purché possieda il file originale, la registrazione originale. Noi ci facciamo carico di pagare quel piccolo diritto che è la parte di broadcast. Quindi diciamo che se uno ha la propria musica la può uploadare, può fare la radio tradizionale, diciamo così. Assolutamente, perché in realtà le persone che ascoltano non possiedono quel brano musicale, non possono influenzare più di tanto la scelta del DJ, diciamo, dall'altra parte, quindi è a tutti gli effetti un servizio non interattivo. Io ascolto la musica che un altro mi propone, certo, magari gli chiedo una dedica, e questo non va in conflitti con tanti interessi dei discografici, e anzi è visto come una forma di promozione, tipicamente l'etichetta discografica. Senti, voi siete una startup, un'azienda giovane. Il problema dei capitali è un problema serio o, come si dice spesso, per andare online i capitali non sono così importanti e ingenti? Allora, volevo capire dalla vostra esperienza come lo avete affrontato, anche qual è il mercato che avete trovato, l'ecosistema che avete trovato in Italia. Allora, andiamo un attimo con ordine. Noi siamo nati poco più di un anno fa all'incirca come idea, poi la società è stata costituita esattamente un anno fa. E nel momento in cui ci è venuta questa idea, chiaramente ci sono state delle persone che ci sono messe full time a lavorare, e queste persone chiaramente devono essere pagate, perché devono sopravvivere, pagare le proprie bollette. Quante sono queste persone? In questo momento stiamo lavorando in 5 persone full time sull'azienda, e però ovviamente non siamo partiti subito in 5 full time, anche se all'inizio sono partiti in 2. Bene, in Italia è abbastanza facile partire a questi livelli, perché ci sono dei bandi a livello regionale, europeo, che finanziano insomma questo tipo di startup nel piccolo. Quindi partire e andare online è tutto sommato facile. Scalare, cominciare a fare tutte quelle attività di promozione, di pagamento insomma di un'infrastruttura che costa dei soldi quando hai degli utenti dall'altra parte, e prendere a bordo delle persone che li gestiscono, necessita di tanti capitali. Allora, noi in Italia siamo stati fortunati perché li abbiamo trovati dopo un grosso lavoro, abbiamo appena chiuso un investimento con un gruppo di business angel. In Italia le entità a cui ci si può rivolgere sono veramente poche, saranno massimo una decina. Però il nostro vantaggio è che le startup che chiedono i soldi sono comunque poche. Io sono stato in Silicon Valley anche per cercare capitali quest'estate, ma soprattutto per sviluppare il business, e là è vero che i fondi di investimento sono magari 3.000, i fondi di venture capital, ma il numero delle startup è ordine di grandezza superiore a quello che c'è qua, quindi là per farsi vedere bisogna veramente sgomitare. In Italia oggi è più facile, quindi arrivare alle orecchie di questi investitori potenzialmente interessati è molto molto più facile. Senti, tornando al business, i soldi ce li fate o ce li farete solo voi, o c'è la possibilità che anche un creatore di una radio, uno dei vostri utenti, possa guadagnare con queste radio? Beh, noi sappiamo che fare radio e soprattutto fare radio di qualità è un impegno e richiede tempo, e la nostra risorsa più importante sono le persone che lavorano sulla nostra radio, impegnano il loro tempo per creare dei contenuti di qualità. Quindi pensiamo di ritornare e condividere una parte dei proventi pubblicitari, chiaramente mirata agli ascolti che il singolo DJ, il singolo host sostanzialmente fa sul proprio programma. Una percentuale abbastanza consistente dei ricavi la restituiamo a lui come forma di pagamento, un po' quello che avviene oggi con Google AdSense sui blog. Noi pensiamo di fare la stessa cosa dal punto di vista audio. E questa era la voce di Francesco Baschieri, che è uno dei fondatori e oggi l'amministratore di Spreaker. È sicuramente interessante vedere come anche la radio si trasforma. Questa sarà una delle forme della radio del futuro, ma potremmo dire anche dell'oggi, perché la radio si è già sviluppata molto online e esistono realtà già consolidate che trasmettono solo ed esclusivamente online. Questo è 2024, tra poco parliamo di sicurezza informatica, ma sicuramente in un modo diverso dal solito. A tra poco. Non passa settimana che le aziende che si occupano di sicurezza informatica ci informano sulle ultime minacce della rete. Fanno il loro mestiere, naturalmente, quindi ci tengono aggiornati su quello che succede, sulle evoluzioni della criminalità online, addirittura la guerra tra paesi, sullo spionaggio industriale, sui virus, tutto ciò che capita di brutto in rete. Ma quanto reali sono queste minacce, soprattutto nei confronti di un sistema paese? Ne abbiamo parlato con Luisa Franchina, che è un ingegnere che è responsabile di un dipartimento all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si occupa di infrastrutture critiche e anche del coordinamento, sicuramente non semplice, di tutti i soggetti che a vario titolo hanno a che fare con questo tipo di infrastrutture. La minaccia informatica è una realtà di cui si occupano attivamente tutti i governi in tutti gli stati. Sicuramente c'è un aspetto di spostamento del possibile teatro di guerra, di una vera e propria guerra, anche sul fronte elettronico e informatico. Ma oltre a questo, che quindi vede un'azione di tutto uno Stato, c'è poi la minaccia dovuta all'attività criminale che si può perpetrare attraverso la rete. Attività che alle volte configura un vero e proprio crimine, alle volte è quasi borderline comunque rispetto ad una illegittimità di qualche tipo. Su questo in Italia lavora naturalmente il Ministero dell'Interno, con in particolare la Polizia Postale, che ha addirittura un paio di leggi specifiche sulle proprie competenze per la lotta e la repressione del crimine informatico, anche specialmente quando questo crimine va a toccare le infrastrutture critiche, cioè quei sistemi o quelle reti che sono funzioni vitali della società, Un esempio tipico è l'energia elettrica, con tutta la rete che le sottende, oppure le telecomunicazioni, ma anche la rete del gas o i trasporti. Oggi tutto questo funziona moltissimo attraverso sistemi informatici e quindi elettronici, alle volte anche molto remotizzati, quindi attraverso connessioni via internet. Non sempre però è possibile creare dei danni completamente essendo remoti rispetto alle infrastrutture stesse, e quindi ci sono delle attività che effettivamente possono essere perpetrate sia per fare semplicemente delle frodi o dei furti o un furto di know-how, quindi di intelligenza specifica su un settore. Ci sono poi delle attività che potrebbero addirittura configurarsi come terroristiche, quindi atte a spegnere completamente magari un servizio, oppure a farne un uso improprio, come potrebbe essere un uso improprio di un impianto nucleare o di un impianto chimico. Tutto questo può essere sicuramente fatto attraverso un'azione elettronico-informatica, che però nella maggior parte dei casi ha necessità, per essere veramente complessa e complessiva, per agire totalmente sul sistema, ha bisogno di una presenza anche fisica. E quindi c'è un aspetto, diciamo, di protezione cyber, cioè cibernetica, e un aspetto ovviamente di protezione anche dal fattore umano, e anche, diciamo, da quello che potrebbe essere il fattore umano insider, cioè di persone che dall'interno di un'organizzazione o un operatore potrebbero in qualche modo dare adito ad un'attività illegale. Quindi quando ascoltiamo qualcuno che dice che le minacce, ad esempio un virus su internet, potrebbe mettere in ginocchio un sistema elettrico in un paese, questa forse è un'esagerazione. Io in genere, scherzando, dico che quando noi guidiamo la macchina non abbiamo paura dei dischi volanti. Ecco, quando siamo sulla rete non dobbiamo essere preda di un panico eccessivo, e sicuramente i governi, ripeto, stanno già facendo delle attività anche congiuntamente per evitare queste possibilità, tant'è che ad oggi non le abbiamo sperimentate, corna facendo. Però è chiaro che dobbiamo agire preventivamente e prepararci, ed è anche chiaro che ci sono delle possibilità, soprattutto quando ci sono bravi programmatori, come è stato il caso di alcuni episodi più recenti. Insomma, anche bravi programmatori possono passare dalla parte dell'attività illegittima, e in quel caso sono un po' pericolosi. Sappiamo che gli Stati Uniti in modo particolare, ma anche forse la Cina, alcuni paesi asiatici, sono molto avanzati nello studio, nelle contromisure riguardo a queste minacce. Qual è il suo giudizio del nostro paese, ma soprattutto immagino il nostro paese sia inserito in un network europeo? Il nostro paese è inserito in un network europeo e in un network più ampio, che è quello della NATO. Ed entrambe queste organizzazioni sovranazionali hanno una specifica attività sulla cyber security. L'Europa ha l'Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti dell'Informazione, che è sempre più attiva, organizza anche delle esercitazioni transnazionali, e quindi ci si confronta tutti quanti e ci si misura anche nella capacità di reazione ad eventi anche sovranazionali e con aiuto fra gli stati. La NATO, dal canto suo, sia per la parte militare che per la parte civile, lavora da anni su questo, ha delle procedure specifiche e ha addirittura instaurato a Tallinn, in Estonia, dopo il grande attacco che ci fu uno dei primi, un centro proprio per lo sviluppo dell'analisi della cyber security. In ogni caso, in Italia c'è la Polizia Postale, che è attivissima da questo punto di vista e che fa appunto sia prevenzione che repressione, e ha connessioni ovviamente con tutti i suoi omologhi in tutti i paesi del mondo. Quali sono i soggetti coinvolti e soprattutto quale rapporto c'è tra il pubblico e il privato? Perché mi pare di capire che mentre nella lotta al crimine tradizionale il pubblico ha sufficienti mezzi e normalmente opera da solo, insomma la polizia opera normalmente da solo, comunque le forze dell'ordine in generale, in questo caso c'è una componente privata forte, anche solo nella fornitura di tecnologie, immagino. Certamente, prima di tutto nella fornitura di tecnologie e poi nella condivisione delle informazioni. sia sugli attacchi e su ciò a cui si è soggetti, volontari o involontari, il virus che mi colpisce o un attacco specifico, è una informazione fondamentale per tutti gli altri, sia i miei omologhi o competitor, che per le forze di polizia e per tutti quelli che devono lavorare alla mia protezione. E poi c'è la condivisione delle informazioni sulle contromisure, cioè cosa ho fatto per ovviare a. Tutto questo insieme di informazioni viene condiviso sia attraverso ovviamente la polizia postale che attraverso tanti altri organismi. In particolare il mio ufficio si occupa delle infrastrutture critiche, tentandosi di individuarle, designarle anche a livello europeo, eccetera, eccetera, ma poi mettendo tutti quanti intorno a dei tavoli dove si possono scambiare queste informazioni, avendo delle garanzie sul fatto che le informazioni stesse non vengono poi mal utilizzate o diffuse oltre a chi ha il dovere di conoscerle, il famoso need to know, cioè sono magari delle informazioni riservate che quindi non è che possono essere rese completamente pubbliche, ma possono essere molto utili per combattere problemi sia accidentali che volontari. Qualche cosa l'abbiamo già accennato all'inizio della nostra chiacchierata, ma mi interessava capire anche qualche esempio pratico. Tra l'altro voi, mi sembra che l'Italia, il suo ufficio, sta coordinando uno studio sull'effetto domino, l'effetto a catena che potrebbe accadere, insomma, se una delle infrastrutture magari subisce un attacco. Ma concretamente, per me che sono un cittadino, che cosa potrebbe accadere? Potrebbe accadere di avere una variazione nella sua vita quotidiana, nella qualità della vita alla quale lei è abituato. E già una perturbazione di questa qualità della vita, media ovviamente, è per noi un evento da tentare di evitare, quantomeno da poter recuperare in modo molto veloce. Quindi si fotografa, diciamo, un sistema paese, una società, con tutta la sua qualità del servizio al cittadino, che ovviamente è fatta di milioni di cose, dell'energia elettrica, dei trasporti pubblici, della sanità, di tutta una possibilità che lei ha nella sua vita quotidiana. Quindi concretamente potrebbe, che ne so, non funzionare la metropolitana, non esatto. Esserci dei blackout energetici. Esatto, esatto. E tra l'altro l'assenza di un servizio, di un settore, potrebbe comportare poi a cascata il decadimento anche di altri. Facciamo un esempio: quando c'è un blackout dell'energia elettrica, automaticamente cadono molti trasporti, per esempio quelli ferroviari o le metropolitane, i semafori possono avere dei problemi, quindi tutta la viabilità anche su gomma può avere dei problemi soprattutto nelle città, e nei giorni se continua a mancare la corrente elettrica si hanno problemi anche di distribuzione di farmaci, di distribuzione del cibo, si può avere problemi sull'acqua potabile, eccetera eccetera, fino ad arrivare a problemi anche sul riscaldamento, magari problemi sulla sanità perché non tutto funziona negli ospedali e così via. Quindi, come vede, questo è il concetto di effetto domino ed è ciò che noi vogliamo tentare di ridurre al massimo come disagio del cittadino. Chiaro che poi è maggiore il problema se sono coinvolte delle vittime o dei forti impatti economici, ma in ogni caso bisogna preservare la continuità di questa qualità della vita di tutti i cittadini di uno Stato. E con questa interessante intervista si conclude questa puntata di 2024. Diciamo che è anche una chiacchierata che ci conforta sapere che da circa un anno esiste un ufficio coordinato dall'ingegner Franchina che si occupa di questi temi in collegamento con l'Europa. Dicevo, è tutto per questa puntata, grazie come sempre per la vostra attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile a breve all'interno del sistema podcast di Radio 24, quindi potrete scaricare il file MP3 di 2024. Noi torniamo la prossima settimana, come sempre il sabato tra le 16 e le 17. Ringrazio anche i nostri tecnici, Anita Panizza in redazione. Io sono Enrico Pagliarini, appuntamento tra 7 giorni. Per ora un buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.